Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Vi ricordo come d'abitudine la nostra mail sottotiro@radio24.it. Vi chiedo di segnalare alla redazione storie di resistenza alle mafie, protagonisti di resistenza alle mafie, persone che mettono in campo azioni ed attività di contrasto alle mafie in qualunque parte del territorio italiano. Vi ricordo il mio blog Guardie o Ladri. Sapete ormai che da 3 anni parlo solo ed esclusivamente di criminalità organizzata ed economia criminale in questo blog. Allora, oggi parliamo di un uomo che della resistenza alla penetrazione delle mafie e della camorra ha fatto una ragione di vita, e il 6 settembre, nella notte tra il 5 e il 6 settembre, è stato ucciso con una modalità brutale per ammissione dello stesso PM Alfredo Greco, che subito ha dichiarato: 9 colpi di pistola sparati così da vicino sono il segno di un accanimento nei confronti del sindaco di Pollica. Siamo in Cilento, nel Salernitano. Sindaco di Pollica Angelo Vassallo, unanimemente riconosciuto come una persona che della legge, della legalità e del rispetto delle regole in un territorio, in una regione che spesso non le osserva, ha fatto una ragione di vita. Noi oggi abbiamo a parlare con noi della sua attività, dell'attività amministrativa di questo sindaco e di un'intera amministrazione, Carla Ripoli, consigliere comunale del comune di Pollica e possiamo dire braccio destro del sindaco Vassallo. Buongiorno dottoressa Ripoli. Buongiorno lettore. Come vedete, come sapete, ormai mi seguite da anni, a me non interessa neppure sapere quale sia il partito di riferimento di appartenenza del consigliere Ripoli, così come non mi interessa, seppur lo so, le cronache lo hanno raccontato, di che colore fosse il sindaco Vassallo, perché credo, dottoressa Ripoli, che nel rispetto delle leggi e della legalità non esista colore politico, o mi sbaglio? No, infatti, dobbiamo dire che Vassallo, nonostante la sua appartenenza politica, come anche la mia e quella di tutta l'amministrazione, ha lottato da sempre perché in questo territorio venisse garantita la legalità, venissero garantito il rispetto delle regole, sempre. Per 15 anni ha detto: il territorio, dobbiamo preservare questo territorio, ha lottato sempre, ha lavorato per questo territorio, ecco, ha amato i cittadini di questo territorio. Dottoressa Ripoli, le chiedo, spieghi ai nostri radioascoltatori che cosa vuol dire preservare questo territorio, quali sono state le azioni che ha messo in campo questo sindaco, che avete messo in campo voi per rispettare le regole, quali sono le regole primarie da rispettare nel vostro territorio? Diciamo che un po' tutte le regole, dall'ambiente, da una cementificazione selvaggia. Infatti noi abbiamo fatto un piano regolatore dove non si poteva costruire niente, andava salvaguardato tutto quello che c'era, ristrutturato, perché il nostro sindaco diceva sempre: dobbiamo rimanere piccoli, dobbiamo rimanere con la nostra identità. Quindi dal rispetto di tutte le cose per quanto riguarda l'edilizia, il rispetto dei vincoli ambientali, il rispetto dei vincoli paesaggistici, il rispetto di tutto lui ci ha insegnato, ecco. E ha cercato in questo territorio di educare i cittadini al rispetto di tutte le regole. Mi lasci sottolineare quello che lei sta dicendo, perché è di un'importanza straordinaria. Noi sappiamo che ci sono interi comuni in Campania che sorgono quasi dal nulla o che diventano da piccoli comuni improvvisamente appendici delle metropoli, proprio perché l'abusivismo selvaggio è la regola ed è incontrollabile. Quindi un sindaco, cari ascoltatori, che dice: qui non si costruisce più nulla, è comunque una rivoluzione. Dottoressa Ripoli, e poi che cos'altro ha fatto il vostro sindaco? Che cosa avete ancora fatto per fare delle cose normali, di quotidianità, ma che nel vostro territorio magari diventano dirompenti? Ecco, per esempio, all'interno dell'amministrazione comunale, il rispetto, voglio dire, proprio del lavoro, ad esempio, spesso questo non esiste. Era un dato di fatto oppure no? Sì, ma lui ci ha insegnato, proprio perché veniva da una vita diversa. Lui era un sindaco, prima di fare il sindaco era un pescatore, era abituato al lavoro, era abituato al sacrificio, era abituato ad non avere niente senza il lavoro. Ha rimesso in moto la macchina comunale, che era fatiscente, del 95 quando siamo arrivati. Non c'erano regole da nessuna parte, nei paesi non c'erano regole, ognuno faceva quello che voleva. E lui in questi 15 anni ha fatto crescere la gente di questo territorio, la gente piano piano si è convinta a non fare più la finestra di acciaio inox, si è convinta a rispettare le regole per quanto riguarda l'ambiente e l'edilizia. E nella macchina comunale diciamo che veramente si era fatto un gruppo di dipendenti che al di là del sindaco lo amavano, perché sapeva essere amico, prima che sindaco sapeva essere amico. Ecco, dottoressa Ripoli, le faccio un'ultima domanda alla quale la prego di rispondere con sincerità. Quante lacrime di coccodrillo sono state versate al funerale di Vassallo? Quanti squali avete visto sorridere sotto i baffi? Cittadini di questo territorio? No, non credo. E di politici? Io ho visto gente piangere, gente distrutta, gente che ha detto abbiamo perso tutte le speranze. Il comune di Pullica ha perso tutte le speranze. Ma lei è pronta a prendere il testimone? Guardi, io sono solo un assessore, poi abbiamo il vice sindaco. Quindi noi ci dovremmo riorganizzare, però dobbiamo adesso trovare la forza per andare avanti. Certo. E io questo dicevo col vice sindaco, dobbiamo fare quello che lui voleva. Lui ci ha insegnato a lottare perché le cose andassero nel rispetto delle regole. Bene. E noi dobbiamo continuare, non possiamo abbandonare. Bene, dottoressa Ripoli, la ringrazio di questa chiacchierata e soprattutto mi piace aver raccontato ai radioascoltatori che esiste una campagna che resiste e sa resistere anche nel silenzio dei media, perché sfido me stesso e sfido voi radioascoltatori a ricordarvi e a, come dire, mettere in moto la memoria se qualcuno di noi aveva mai sentito che a Pollica, nel Cilento, nel Salernitano, c'era un sindaco come Vassallo, che era un sindaco che le regole le aveva nel proprio DNA. Grazie alla dottoressa Ripoli, grazie in regia. A lei, grazie, grazie in regia a Peter Bescapè, in studio Laura Fagin, e Roberto Carullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.